Per me, la corazzata Potëmkin è una cagata pazzesca! Te la raccontiamo noi la rivoluzione. 1917-2017, speciale a puntate sulla rivoluzione russa. A cura di Michele Terra e Agostino Giordano. Ciao Agostino. Ciao Michele. Eccoci di nuovo qui a parlare di rivoluzione russa. Dove eravamo rimasti? Secondo me eravamo rimasti che avevamo appena preso il potere. Ah, bene, quindi siamo al potere. E c'erano i primi decreti rivoluzionari e stavamo narrando un po' la presa del Palazzo d'Inverno. Bene, bene, quindi la presa del Palazzo d'Inverno che avvenne in maniera anche rocambolesca per certi versi. Abbiamo detto che non ci fu un clamoroso spargimento di sangue perché la guerra civile ci sarà dopo, però insomma fu il gesto che rappresentò la rottura rivoluzionaria, no? C'è qualche aneddoto particolare rispetto a quell'episodio, a quelle vicende? Sì, fu anche un... per certi versi un episodio allegro, c'è una testimonianza del comandante militare bolscevico Antonov Ovschenko, un personaggio mica da poco, il capo militare della rivoluzione, che nelle sue memorie racconta alcuni imprevisti durante la presa del Palazzo d'Inverno. Che ci sono sempre gli imprevisti, no? Sì, in particolare ricorda: il problema principale era costituito dalle cantine del Palazzo d'Inverno. Come scendeva la sera si scatenava un baccanale selvaggio. Ci berremmo i resti dei Romanov. Questo lo slogan giocondo aveva conquistato la folla. Provammo ad allagare le cantine d'acqua e gli stessi pompieri si ubriacarono appena messi all'opera. Della serie finisce sempre tutta a tarallucci e vino, anche lì. Purtroppo però non sempre tutto finisce a tarallucci e vino, nel senso che preso il Palazzo d'Inverno cominciano un po' i cavoli amari per i rivoluzionari, che non era esattamente la dieta preferita per i russi del periodo, perché come abbiamo ricordato nella scorsa puntata i bolscevichi puntavano a far finire la guerra, però la guerra finisce se anche il nemico smette di sparare. Certo. Dall'altra parte i tedeschi in realtà non erano molto convinti, anche perché riuscendo ad avanzare in territorio russo e potenzialmente ad annettersi buona parte dei territori dell'impero, erano tutt'altro che contenti di accettare tuccure le proposte leniniste, cioè quelle di una pace senza annessioni e chi si è visto si è visto, e quindi erano intenzionati a continuare la guerra. E il primo problema che il governo leninista si trova di fronte appunto è l'avanzata continua delle truppe tedesche, e quindi propongono immediatamente un armistizio e tentano con una trattativa che sarà lunghissima, i famosi trattati di Brest-Litovsk, di porre un freno alla guerra con meno danni possibili dal punto di vista territoriale. E si arriva appunto al 3 marzo 1918, in cui nei fatti viene sancita la pace, no? A rimetterci è ovviamente la Russia, che perde gran parte del proprio territorio, quindi diciamo una grossa perdita, però che diciamo i bolscevichi misero volentieri sul tavolo per ottenere la pace, no? Quindi il discorso della pace, del fermare quel massacro che era appunto la prima guerra mondiale, almeno da parte della Russia, nei fatti si concretizzò, quindi avvenne questo. Però poi vediamo che invece la guerra all'interno purtroppo esplose quasi subito. Sì, perché da un lato, diciamo così, esterno, i bolscevichi auspicavano una rivoluzione europea e quindi tentarono di tirare per le lunghe le trattative con la Germania, perché anche in quel paese loro pensavano ci potesse essere uno sbocco rivoluzionario. In realtà questo non avvenne, quindi ci rimisero molti territori. Nel momento in cui però riescono, diciamo così, a fermare il conflitto mondiale, poco dopo esplode una violentissima guerra civile. Anche perché appunto c'era chi non voleva che governassero i bolscevichi e che si rivoltasse la situazione sociale in Russia, no? C'erano quelli che si opponevano. C'erano i cosacchi del Don, che... Cos'è sta roba? I cosacchi del Don furono il primo esercito, anzi ti do del cosacco del Don come insulto per rifarmi, erano diciamo i primi... Non so andare a cavallo. I primi che si opposero con le armi ai bolscevichi, guidati da Krasnov, formarono il primo esercito bianco, no? Io non so perché questi me li immagino tutti con la faccia di Belpietro, mentre i menscevichi viene in mente la faccia di Renzi, i trudovichi, non so, D'Alema, questi qui, non so, mi vengono in mente tante facce di Belpietro. Insomma, però appunto la guerra fu subito dura. Sì, tra l'altro l'opposizione interna militare non era inizialmente fortissima al governo bolscevico. Ci fu un impegno notevole delle forze straniere, con anche missioni militari. Germania, Francia, Inghilterra, ma anche italiani andarono a combattere, mandati da Vittorio Emanuele, un re famoso perché non ha mai finito una guerra dalla stessa parte in cui l'aveva iniziata. E quindi sono anni e anni di guerra civile. Tra l'altro non c'è soltanto così una letteratura tra virgolette colta che narra la guerra civile. Per esempio ci sono alcuni fumetti di Guido Crepax. Ah, Guido Crepax fa due fumetti molto belli e importanti. Il primo, L'uomo di Psikhov, uscito nella fine degli anni 70 per edizioni Cepim, un testo molto molto bello, abbastanza trovabile in circolazione con varie ristampe. E un altro fumetto più onirico, meno storico, Viva Trotsky, dove Valentina, il sex symbol dei fumetti di Crepax, si ritrova su un treno che simboleggia tutto il percorso della rivoluzione. Bellissimo. E tra l'altro Guido Crepax era un compagno. Anche lui. Sì, Guido Crepax era un militante negli anni 70 dei gruppi comunisti rivoluzionari per la Quarta Internazionale. Un trotskista, quindi. Anche Valentina, la sua protagonista, era un, diciamo, da un punto di vista letterario e fumettistico, una trotskista rivoluzionaria. Te ne stai rivendicando un po' troppi, secondo me. Comunque, va bene. 1905 era estate. Potiomkin, un vascello tre camini nella nebbia. Potiomkin, il mare, il fuoco, il silenzio. Capitano, che cosa posso fare? Amo la vita e non vorrei sparare. Potiomkin, il giorno provvisorio se ne va. La terra è di tutti e di nessuno. La nave in mezzo al mare. Tutti per uno. Odè! Vorrei sparare, ma voglio essere libero per poter amare. Odessa, le piazze vuote temporali e va la gente nei rifugi e sul sagrato. La nave se ne sta, da sola guardia c'è un soldato. Salutiamo Virginia Pili, che è in linea con noi, collegamento telefonico. Virginia è una traduttrice che ha dato alle stampe recentemente un libro che ha curato, I quattro anni che cambiarono il mondo, dall'insurrezione all'edificazione del primo Stato socialista, la storia della rivoluzione raccontata in presa diretta dai corrispondenti di guerra sovietici. La prima domanda è quindi d'obbligo, Virginia. Come ti è venuta l'idea di andare a cercare dei testi così particolari, che probabilmente hanno un valore storico, ma anche letterario? Qual è stato la spinta per iniziare questo lavoro? Buonasera Michele, buonasera a tutti. Allora, diciamo, l'idea dietro era duplice. Da un lato io volevo, come mio progetto di studio personale, aprire una nuova pagina della letteratura sovietica, portare al pubblico italiano degli autori ancora inediti, che non erano stati tradotti o erano stati tradotti in maniera molto parziale. Come altro obiettivo era quello di trovare un volto il più possibile umano e personale alla rivoluzione. Io mi sono concentrata su trovare storie di ragazzi e ragazze, uomini e donne che travolti dalla rivoluzione l'abbracciano e lasciano che la rivoluzione cambi le loro vite e li aiuti anche a trovare il proprio destino, perché sono tutte persone che fanno delle scelte molto forti e diventano quello che erano destinati ad essere. Quindi appunto inquadrare la forza della rivoluzione, la sua eredità più importante, appunto come questa forza di cambiamento nella vita del singolo. E ho lavorato su delle fonti russe, sia riviste sia un lavoro di archivio, quindi un lavoro totalmente sui testi originali, a cui ho cercato anche di dare un contesto storico, di fornire anche delle spiegazioni, una base critica per la comprensione dei racconti. Sì, ho visto che stai facendo anche molte presentazioni, molti interventi pubblici su questo libro. C'è un interesse attorno a questi temi o è una cosa molto di nicchia per pochi iniziati? Guarda, ho notato con piacere che comunque c'è un buon interesse intorno a questi temi. Io ho finito ora una presentazione alla Camera del Lavoro di Firenze, dove avevamo un pubblico di 100 persone. Abbiamo dialogato, è stato veramente molto interessante, ci sono state molte domande, il pubblico è stato molto partecipe. Quindi io ho fatto presentazioni sia in contesti più ufficiali come questo, sia in realtà diciamo anche di lotta come centri sociali, quindi ho una panoramica, direi che l'interesse è molto diffuso e molto diversificato. Io chiuderei con una domanda d'obbligo, visto che parli russo e i nostri ascoltatori sono sicuramente interessati. Come si dice in russo caro, spegni il forno che il bambino è cotto? Provedo subito. Дорогой, выключи печь, потому что ребенок уже готов. Ti ringrazio, sarà un contributo molto utile al nostro manuale di cucina bolscevica rivoluzionaria. È la frase con cui cominciano tutti gli esami, appunto, di lingua russa rivoluzionaria. Se non si chiede quella, si boccia. Grazie Virginia, buona serata. Grazie a voi, buona serata altrettanto. Grazie. Nel paese dove è nato Arietta Berti c'è Piazza Lieni. Ed in mezzo un busto di Lieni. Se uno ci pensa, non ci può credere. Faceva un po' schifo Piazza Lieni, ma ora la stanno aggiustando. Una testa di metallo scuro e ai suoi piedi qualche dedica e qualche fiore. C'è scritto che è stata fusa nel 1920 e poi donata da una sezione del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Perché, ed è la cosa davvero pazzesca, Lenin è il sindaco onorario di Cavriago da sempre. Nessuno ha mai revocato la delibera del Consiglio Comunale di allora. La piazza è rimasta Piazza Lenin e gli abitanti ne sono fieri. Addirittura in questa fase convulsiva Lenin subì un attentato nell'agosto del 1918. Le Brigate Rosse? No, i socialisti rivoluzionari credo che rimase gravemente ferito, insomma, quindi però poi insomma si riprese per fortuna. Ovviamente non ebbero vita facile, anche perché c'erano a contrastarli chi non ho studiato. Oh, come un altro insulto. I kulaki, dai. Questo credo che sia questo è peso come insulto, questi kulaki. Adesso mi sono ricordato, i kulaki erano i contadini ricchi che poi vennero sterminati nel periodo stalinista, anche perché a un certo punto Stalin decide la coltivazione forzata delle campagne e quindi decide che vanno sterminati i contadini ricchi. In realtà non c'erano soltanto i contadini ricchi che diventano vittime dello stalinismo. A un certo punto Stalin ritiene che tutti i contadini che avessero da mangiare andavano sterminati e poi anche tutti quelli che respiravano, e quindi fa fuori buona parte della popolazione delle campagne, questo poi con alcune ripercussioni poco gradevoli sulla popolazione, fra cui le carestie. È in quel periodo lì che nacque anche la CECA, no? Sempre durante questa, diciamo, guerra civile, la Commissione Straordinaria Panrussa per la lotta alla controrivoluzione e al sabotaggio, che vide soprattutto gli anarchici fra le vittime, no? Sì, inizialmente era un organismo di difesa della rivoluzione, poi dopo diventa uno strumento controrivoluzionario. Perché? Perché durante la guerra civile viene, tra virgolette, sospesa la democrazia interna al partito bolscevico, nel senso che c'è la guerra e quindi il partito decide che non deve più concentrarsi sulle discussioni interne, teoriche e pratiche, ma dedicarsi al massimo sullo sforzo militare. Poi purtroppo questa sospensione diventerà permanente. Tra l'altro c'è un mito, quello del partito bolscevico unito come un solo uomo. In realtà non è esattamente così. Il partito bolscevico inizialmente e fino ai primi anni 20 era formato da 14 frazioni diverse. No, le correnti. Molto peggio delle correnti, perché erano in alcuni casi proprio micropartiti dentro al partito, quindi in parte per linea politica e in parte per dislocazione territoriale. E noi che ci lamentiamo di quelle vissute dalla sinistra comunista italiana, e purtroppo questa delle divisioni, delle frammentazioni, delle correnti è qualcosa che nasce, come vediamo, da ben lontano. Tra l'altro Lenin era certamente il personaggio principale, ma non era il padrone del partito. Lenin più volte viene messo in minoranza e si deve scontrare con i suoi compagni per poi riottenere la maggioranza e far applicare le sue decisioni. Quindi in questa fase, diciamo, della guerra civile, possiamo considerarla quindi dal 1918 fino al 1921, vero? Sì, è un periodo molto duro. Infatti il partito e il governo applicano il cosiddetto comunismo di guerra, quindi una rigidità sia del regime interno ma soprattutto dal punto di vista economico, finito il quale poi ci sarà la nuova politica economica, la cosiddetta NEP, che dovrà fare alcune marce indietro rispetto a programmi iniziali e riaprire alla piccola borghesia e reintrodurre alcuni meccanismi economici di tipo capitalista per far ripartire l'economia. Anche perché, diciamo, la situazione migliorò nel momento in cui anche Francia, Inghilterra, USA e Giappone ritirano il sostegno, diciamo, alle truppe controrivoluzionarie e si consentì al paese di respirare, e quindi anche i bolscevichi poi dopo il 1921 riuscirono a controllare meglio la situazione, no? Sì, anche perché contrariamente alle previsioni di Lenin, che pensava di rimanere al potere qualche settimana, riescono invece a tenere sia dal punto di vista politico interno che esterno e militare, e quindi a un certo punto anche gli altri stati cominciano a capire che è una realtà con cui devono fare i conti, e quindi man mano che passa il tempo iniziano a riconoscere il governo dei soviet come il governo legittimo del territorio russo. Ecco, diciamo che non si aspettavano un fallimento, no? Cioè, adesso alla prova dei fatti vediamo i comunisti al governo, e invece diettero comunque una prova di solidità enorme, impressionante. Gli hanno fatta bene, un po' una botta di culo. Diciamo. Ogni tanto una botta di culo serve anche ai comunisti. Ciao Alessio. Ciao a tutti, soprattutto agli ascoltatori. Abbiamo qui in linea con noi Alessio Lega, un noto cantautore compagno che però non è esattamente un bolscevico leninista, anzi diciamo che è anche un pensatore e intellettuale anarchico, e oggi gli abbiamo telefonato perché durante il percorso molto lungo della rivoluzione russa non c'erano soltanto i marxisti, i bolscevichi o i socialisti rivoluzionari di derivazione populista, ma c'erano anche gli anarchici, e chi meglio di Alessio Lega non ce ne può parlare e raccontare il loro pensiero e la loro azione in quel periodo. In realtà possono farlo un sacco di persone meglio di me, però voglio dire, si dà il caso che qualche nozione ce l'abbia anch'io, perché che ci volete fare? Anch'io ho avuto dei genitori comunisti, anche nella mia casa campeggiava un ritratto di Marx e ha orrore persino uno di Lenin, quindi che dobbiamo fare? Quello è l'ambiente da cui siamo venuti e ci siamo distaccati da questi come ci si distacca un po' in adolescenza dai genitori, se li si ritiene un po' severi o se comunque si pensa di avere qualcosa in più, in meno, di diverso da dire. Anche una riflessione sul fatto che appunto gli anarchici spesso non vengono considerati, diciamo, quando si elencano i protagonisti. Vuoi proprio la risposta seria, te la do, come certo persino bolscevichi di stretta, provata e rigorosa fede sanno, le rivoluzioni russe per loro sono almeno due, diciamo che le rivoluzioni russe sono un sacco, e poi che ci vuoi fare, noi che siamo figliuoli di un grande orso russo che si chiamava Mikhail Alexandrovich Bakunin, non possiamo non pensare, abbiamo sempre pensato alla Russia come un luogo a cui l'anarchia era partita e a cui doveva ritornare. E in qualche modo, in qualche misura, questo lo ha fatto in quegli anni feroci, lo ha fatto subito, lo ha fatto nel 17, lo ha fatto appunto nel febbraio, e a un certo punto persino appunto il rigoroso mangiabambini Lenin, con le sue tesi d'aprile, dai suoi compagni di partito, era stato accusato di essere diventato un filo anarchico dal momento che, come dire, promulgava la rivoluzione sociale come alternativa, e in questa cosa qui ci sono cascati anche gli anarchici, per l'appunto, almeno alcuni anarchici, una parte di anarchici, qualcuno ci è cascato un po' anche proprio definitivamente, e mi sto riferendo a Victor Serge, uno di quei personaggi che a me personalmente fanno impazzire, mi stanno simpaticissimi, pur non essendo d'accordo con un sacco di cose che ha detto, però sai, Victor Serge era un russo nato a Bruxelles, vissuto in Francia, che si era fatto arrestare da tutte le polizie possibili, e poi si farà arrestare anche da quella stalinista, quindi considerato troppo comunista dagli anarchici, troppo anarchico dai comunisti, troppo anarchico anche dai trotskisti, troppo trotskista dagli stalinisti, insomma veramente uno di quelli che, per dirla alla maniera di Don Milani, stava sul culo a tutti, quindi in qualche misura doveva anche essere un profeta. Questi personaggi qui, e poi ovviamente si sa, quelli che la rivolta di Kronstadt, in cui c'entra in qualche modo anche il buon Trotsky, oppure quell'altro fenomeno di insorgenza contadina che un po' sta in una rivoluzione, un po' sta in una jacquerie, che è il fenomeno della Macnoscina, quindi la rivolta di Macno in Ucraina, e insomma, che un ruolo lo hanno avuto a riconquistare l'Ucraina incredibilmente persino al socialismo, e insomma oggi l'Ucraina resta un luogo dibattuto in questo senso, dove si presenta anche tutto il peggio di quello che si può, insomma è un calderone che non smette di ribollire sta rivoluzione, e in questo calderone ci siamo stati anche noi. Alessio, una domanda prima di chiudere: gli anarchici sono stati fra i primi gruppi ad essere repressi dopo la rivoluzione bolscevica, abbiamo questo privilegio. Questo è dovuto forse, secondo te, anche a un problema di dieta, cioè gli anarchici si rifiutavano di mangiare i bambini ed erano già allora avanguardie vegane, crudiste, fruttariane? Sì, insomma, come gli anarchici, come poi hanno imparato a fare anche i bolscevichi, poco dopo, in questo buoni allievi, sono sempre stati bravissimi a litigare fra di loro, bisogna riconoscerglielo, ai noi, e quindi già allora c'erano un sacco di anarchici diversi, ma sicuramente c'era il vegetarianesimo, in parte derivava anche, se vuoi, dalla versione più religiosa dell'anarchismo, quella che aveva a che fare con il buon Tolstoy, ne era stato un maestro, all'epoca aveva già tirato la calzetta, peraltro piuttosto vecchio, però era stato in qualche modo, se non proprio un anarchico, comunque una figura che aveva influito su questo pensiero, e probabilmente, chi lo sa, sì, questo sbaglio, questa dieta, questa mancata dieta di bambini, d'altronde noi siamo sempre stati abortisti, e quindi che vuoi fare, o sei abortista o mangi bambini, non puoi essere tutte e due le cose insieme. Prendiamo per valida la risposta, ti ringraziamo, e comunque, visto che i tempi sono un po' cambiati, andremo tutti insieme a portare i cavalli ad abbeverarsi in piazza San Pietro, comunisti e anarchici. Grazie Alessio, ciao. Certamente, ciao. Riposo all'ombra del silenzio che ora sento, riposo all'ombra del cemento, riposo all'ombra del potere più assoluto, quello che ho sempre combattuto. Riposo all'ombra di quel vostro essere schiavi, ciò che vi ha sempre imprigionato. E siete voi le porte, non avete chiavi. Riposo all'ombra dello Stato, solo per la libertà son nato un giorno e son vissuto ed ho lottato ed ho perduto. Solo per la libertà son nato un giorno in mezzo a gente che non vuol sentire niente. Solo per la libertà ho alzato in piedi la rivolta ad ogni strada e ad ogni svolta. Solo per la libertà riposo all'ombra dei miei compagni uccisi, del tempo che poi ci ha divisi, del vostro sguardo che sul mio si posa, su qualche qualche foto polverosa. Poso all'ombra del vostro smorto oblio. Riposo sempre senza pace. Sempre padroni, c'è sempre qualche dio che opprime un popolo che tace. Per la libertà in tutto il mondo sempre corso e senza l'ombra di un rimorso. Solo per la libertà ho rifiutato case d'oro ed il potere di lavoro. Solo per la libertà di un mondo che non la voleva ma poi in catene la piangeva. Solo per la libertà. All'ombra di chi crede che io sia stato un sognatore esaltato, e di chi crede che oggi tutto vada bene, democrazia e nuove catene. Poso all'ombra di chi legge un mio trattato invece di occupar le vie. E io che urlo, io che ho corso e che ho lottato, poso nelle librerie. Solo per la libertà ho scritto amato ed ho lottato, e non per essere studiato. Solo per la libertà, se non potevo tirar sassi, ho camminato nuovi passi. Solo per la libertà, contro ogni forma di potere e per non dover vedere la mia cara libertà. La mia cara libertà, un cencio rosso sanguinante di uno stato più intrigante, la mia cara libertà venduta come una puttana, libertà americana, la mia cara libertà diventata una parola che si strozza nella gola solo per la libertà. Michele, libri della buonanotte, stavolta cosa consigliamo? Ma andiamo un po' sul letterario. Victor Serge, La città conquistata, che è un romanzo ambientato nella Pietroburgo assediata, sempre sul letterario Babel, L'armata a cavallo, e ovviamente Pasternak, Il dottor Zhivago. Bellissimo, classico. Sulla poesia, appena uscito, 1917, I poeti che fecero la rivoluzione, per Interno 4, e poi Se proprio uno non riesce a dormire, Gli scritti no. militari di Trotsky, no. e quello, Il Valium gli fa una pippa. Bene, bene. Bene, saluti a tutti anche per questa puntata e buona rivoluzione. E ciao, alla settimana prossima. Ciao. E c'è chi chiede, e c'è chi vuole. E allora un raggio luminoso di speranza mi fa riposare al sole. Mi fa riposare. Sorry.